sole la frazi un altro. Troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendi per giro. L'espressione di un mondo per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu